ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Volevo dirvi che siete una delle poche cose rimaste della vecchia vita e quindi devo dire che mi date un senso di abitudine di quello che avevo prima del coronavirus. Grazie. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cara Deborah, buongiorno, come stai? Buona giornata, tutto bene, grazie. Ti ho sentita giuliva, che parlavi di vacanze già e prenotavi il tuo ombrellone cercando anche di ottenere degli sconti, secondo me, diciamo la verità. No, ho dato a te dello smargiasso, ma in realtà sono le accuse che ci rivolge solitamente Leonardo Manera, perché essendo dei giornalisti lui pensa che noi andiamo a gratis ovunque. Bisognerà che questa cosa gliela si tolga in qualche maniera dalla testa, e quindi ti ho preso in giro, ma in realtà parlavo anche un po'. Secondo me, di me. È più facile che un comico non paghi il conto. Però io non voglio con questo prendermi con la categoria dei comici, ma solo con un comico precisamente. Allora, esatto. Perché cara prima Deborah? Prima o poi dovremmo aspettarlo fuori. Vabbè che adesso facciamo ancora tutte le trasmissioni in remoto, ma prima o poi dovremmo andarlo a prendere e a dargliele di santa ragione per tutte le cose che dice contro di noi. Scherzando ovviamente, perché poi ci vuole anche bene. Allora, cara Deborah, perché abbiamo cominciato con i Beatles, con i Fab Four? Perché dobbiamo commentare... Baby, you can drive my car. Perché intanto parliamo di auto stamattina per tutta la trasmissione. No? Oh. Perché parliamo dei nuovi incentivi che dovrebbero presto arrivare per convertire il parco auto vetusto che c'è nel nostro paese, perché parleremo del contratto assicurativo di base, e poi perché Tesla, sì, il brand dell'auto elettrica, sì, la società fondata da Elon Musk, praticamente sta letteralmente volando a Wall Street. Tu pensa che ha raggiunto 326 miliardi abbondanti di dollari di capitalizzazione di borsa. È il decimo titolo sui mercati statunitensi per capitalizzazione. Ora, io dico tutto bello, tutto interessante questa innovazione. Elon Musk ci sta portando anche nello spazio, ma è anche vero che questo signore qua nel secondo trimestre di quest'anno ha consegnato 90.650 vetture. Sì, doveva consegnare, secondo le sue migliori previsioni, 72.000. Sì, quindi va bene, però l'abbiamo già notato in un'altra puntata, un paio di settimane fa, credo, che aveva superato in capitalizzazione grandi, enormi case automobilistiche, possiamo anche fare il nome, intanto non ha bisogno di pubblicità. Tutte messe insieme, le big tutte messe insieme, che ha dell'incredibile, che infatti. Producono molte più auto di quante ne produca Tesla. Ma milioni, è il discorso delle aspettative, no? Tu mi insegni, Deborah, come dicono quelli bravi. Lei mi insegna, sì, cara Rosciani, che il mercato ha molte aspettative su queste auto elettriche Tesla, e quindi evidentemente ci punta forte, come si dice con un gergo così da giuoco. E al momento quindi potrebbe anche arrivare allo Standard & Poor's 500, mi sembra di capire, perché avendo tutta questa corsa al rialzo potrebbe essere promosso insomma tra i big. Questo pronostico. Detto questo, noi siamo ben felici che questo titolo corra in borsa. L'importante è che non gli vada troppo dietro il gregge, e quindi il popolo dei piccoli risparmiatori. Se dovete puntare su questa storia, che è sicuramente vincente in questo momento, intanto magari un tantino tardi, perché ha corso già molto, e poi chiaramente non fatelo su un esclusivo titolo, ma diversificate quanto più possibile, quindi maneggiate con cautela queste brillanti storie di borsa, perché poi arriva il momento in cui c'è il famoso storno, Mauro, ed è generalmente un po' doloroso. Specialmente per quelli diciamo come noi, quelli risparmiatori qualsiasi, non professionisti. Allora, il retail. Sì. Parleremo di auto, come ha già annunciato Deborah, parleremo del contratto RC di base, parleremo degli incentivi vecchi e nuovi in arrivo ad agosto. I numeri sono quelli abituali, 800240024 per il numero verde per intervenire in diretta, oppure se volete mandarci un messaggio SMS o un messaggio via WhatsApp e quindi anche vocale, potete utilizzare il 349-238-6666. Dall'altra parte del vetro sono pronti vigili lo specialista questa mattina Guido Scotti e il professionista, cioè Filippo Aureggi, davanti al suo bancone di regia, e poi c'è come sempre il massimalista, nel senso che è il massimo degli assistenti, Marco Lombardo, che ci segue da remoto, tutto sa e tutto vede. Partirei se tu sei d'accordo, Deborah, col giornale radio del risparmio. D'accordissimo. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Non occupatemi il telefono, dal mio amore dovrò sapere se vuole ancora ritornare da me. Ma diciamo che Gino Paoli, quando cantava questa canzone, forse il problema del quale vogliamo parlare in questo momento non ce l'aveva, quindi non erano sicuramente i molestatori del marketing aggressivo a occupargli il telefono e impedire di sentire la sua amata. No, io poi stavo pensando, Deborah, ma sembra che proprio noi ce l'abbiamo con le compagnie telefoniche. Ma pure loro, però. Però non è colpa nostra, ha fatto tutto il garante della privacy e noi siamo obbligati a riferire. Allora, dunque, ovviamente ci sono sempre segnalazioni di cittadini, spesso ci capita di reclamare perché arrivano contatti promozionali che non desideriamo, che sono troppo invadenti, ci arrivano email, telefonate, chiamate per sottoscrivere i vari abbonamenti. Allora, il garante della privacy ha fatto un po' di controlli e il 9 luglio che ha fatto, Deborah, dillo tu. Si è impermalito parecchio. Il 9 luglio ha sanzionato un grande gruppo, adesso... A me spiace anche fare il nome, però fosse stata una sanzione da 100 euro magari potevamo anche evitare, no, di dirlo, ma se una si becca 17 milioni di euro di sanzione per trattamenti illeciti di dati legati ad attività promozionali, e allora uno deve dire pure il nome, no? Signori di Wind 3, ma datevi anche una calmata, smettetela di invaderci di telefonate, appunto. Io capisco che la promozione adesso delle vostre offerte commerciali imperdibili vada fatta attraverso questa modalità, ma arriva anche un certo punto in cui intanto blocco come dire il numero se mi accorgo che mi tormentate. E comunque ho fatto cercare a Marco Lombardo, Mauro tu te ne sarai accorto prima, una conferma di questa notizia, perché 17 milioni mi sembravano veramente tanti, e invece sì, è confermata l'ammontare della sanzione. Ma sai, Deborah, perché qui c'era anche il fatto che in numerosi casi gli utenti hanno segnalato di non essere stati messi in grado di esercitare il diritto di revoca del consenso, quindi c'era proprio una difformità, una mancanza grave all'origine, perché a volte noi prestiamo magari il consenso, poi ci ripensiamo e tormentati da varie email, questo capita con tantissime società, non necessariamente solo con le compagnie telefoniche, vogliamo recedere da questo consenso, e questo non era possibile, dice il garante della privacy, ed è uno dei motivi per cui è arrivata questa maxi sanzione. Allora, parliamo di casa adesso. C'è una cosa interessante che sta succedendo a San Francisco. Allora, tu sai, Mauro, che generalmente le città dove si lavora molto generano anche un altro fenomeno, che può essere quello della bolla immobiliare. E quindi sì, chiaramente tutti cercano una casa vicino al posto di lavoro. Può capitare chiaramente a Milano. Io vivo qua, posso dirlo, non dico l'indirizzo naturalmente, del quartiere dell'Isola, dove improvvisamente si è creato un grande interesse, tanti locali, grande vivacità e grande fermento, e di conseguenza il mercato immobiliare va dietro. Che cosa è successo a San Francisco? Quindi ho fatto tutto questo giro geografico anche che riguarda la città di Milano per arrivare in realtà alla baia di San Francisco, dove chiaramente grazie a tutta la spinta dell'innovazione tecnologica, la Silicon Valley chiaramente è un'area molto ricercata dal punto di vista della casa e dell'immobiliare residenziale, ma al punto che chiaramente si è generata una bolla, i prezzi delle abitazioni sono diventati insostenibili, e quindi l'abitazione, il tema residenziale è inaccessibile praticamente per molti. E quindi che cosa è successo? Che i big della tecnologia, a partire da Apple, Ha fatto sapere Apple stessa che stanzierà 400 milioni di dollari per programmi di assistenza abitativa che rendano accessibili i prezzi delle case in questa area. La cifra messa a disposizione è parte di un impegno finanziario più complessivo di 2 miliardi e mezzo che è stato annunciato lo scorso novembre. E il colosso high-tech agirà insieme a Facebook, a Google, a Microsoft, perché tutti insieme chiaramente sono un po' accusati di aver generato questa bolla e di aver reso inaccessibili i prezzi delle case per i lavoratori della classe media. Lo scorso aprile 300.000 persone, pensate, hanno abbandonato l'area proprio per questa ragione e quindi queste società si sono impegnate collettivamente ad investire nel settore residenziale ben 5 miliardi di dollari. Apple ha precisato che 1 miliardo è destinato proprio ad uno specifico fondo di investimento per abitazioni economicamente abbordabili. 1 altro miliardo riguarderà un fondo di assistenza per mutui indirizzato a coloro che comprano la prima casa. E quindi, nella sostanza, Mauro, questi colossi entrano anche nel mercato immobiliare e adesso vediamo che cosa succederà. Eh sì, perché per quanto... anche questa è un po' un'iniziativa disruptive, se vogliamo, no? Diciamo che potremmo definirlo in parte housing sociale, come si dice, però insomma di sicuro è housing societario di questi grandi colossi del web. Ma siccome parli di mattone, parli di milioni, di miliardi, io invece parlo del 110%, perché ti voglio segnalare nel mio piccolo che, attenzione, sul Sole 24 Ore di oggi, pagina 28, ci sono i massimali unitari da applicare agli interventi che rientrano appunto nel perimetro del 110%, del bonus facciate, dell'eco bonus. Questo provvedimento è ancora in bozza, però sostanzialmente è quello che dà dei tetti di congruità, cioè degli importi allineati ai valori di mercato da utilizzare per poi fare i lavori, appunto anche i lavori del 110%. Tutto quanto è spiegato a pagina 28 di oggi. Se volete delucidazioni sul 110%, tra l'altro è anche sempre attivo il forum dell'esperto risponde sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/, cioè la sbarra, forum 110, forum 110. Sul bonus del 110% naturalmente avremo anche occasione di ritornare qui a Due di Denari, già l'abbiamo fatto, trovate sul sito della radio, di Radio 24, appunto le nostre puntate precedenti sul bonus. Tutto ciò premesso, bene, cara Debora, io ma metterei in moto... Serpente... Sì, ma hai sentito il serpente corallo di cui ha parlato Enrico Pagliarini nel giornale radio? Ma che guarda, è un bel assist al nostro programma di stamattina. Stiamo già modificando la scaletta del serpente corallo che andrà in onda da fine luglio, da agosto, nel sabato e nella domenica, perché andrà in onda dal sabato alle 9, domenica a mezzogiorno in replica, proprio per fare spazio anche a operazioni come queste, cioè le false RC auto. Ne abbiamo parlato già altre volte, Deep tu Deborah, questa volta che è successo, già l'hanno sentito in parte col giornale radio. Dilla. E poi la facciamo magari commentare ai nostri ospiti. Allora, sequestri preventivi per 30 milioni, misure cautelari per 16 persone sono i numeri principali di questa operazione che si chiama Reste, con cui i carabinieri del Comando Provinciale di Milano, insieme ai colleghi delle province di Caserta, Torino e Isernia, stanno dando esecuzione ad una serie di misure emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Procura, nei confronti di una banda accusata di vendere via web false RC auto. Fenomeni diffusissimi nei quali, a quanto pare ancora in troppi, continuano a cadere. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività assicurativa e di intermediazione assicurativa e uso di marchi e segni contraffatti, perché poi il punto è questo, Mauro, perché queste persone che si propongono sul web lo fanno utilizzando brand molto noti, ma magari sono differenti solo per dei particolari minuscoli, le persone non si accorgono e magari su proposta di tariffe molto vantaggiose sottoscrivono questi contratti online e cascano in queste reti di truffatori. Sono indagini addirittura partite nel 2017, quando hanno cominciato ad arrivare denunce che arrivavano dagli stessi gruppi assicurativi appunto che erano truffati a loro volta e che lamentavano proprio la commercializzazione di polizze false con il loro marchio. E quindi commenteremo tutto ciò, se vuoi, anche con i nostri ospiti, li presentiamo fra un attimo. Andiamo. Allora, comincio dando il benvenuto all'avvocato Raffaella Grisafi, vicepresidente di Consumer Italia. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari, avvocato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. E poi una, come possiamo parlare di auto, parlare di RC, parlare di incentivi per l'auto e non sentire, non interpellare una delle massime autorità mondiali? Forse è poco a questo punto, io poco, utilizzerei sì. termini spaziali, galattiche, insomma, in una parola, l'amico Maurizio Caprino, che è il nostro riferimento obbligato davvero. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, grazie. Allora, da dove vuoi partire, Deborah? Dagli incentivi o dalla polizza, dall'RC per continuità col serpente corallo di cui abbiamo detto, ma, l'RC auto di base? Ma guarda, io vorrei coinvolgere l'avvocato Grisafi per chiederle adesso un commento proprio su questa notizia. Come associazione dei consumatori tocca ancora una volta commentare queste vicende tristi, ma soprattutto colpisce il fatto che più se ne parla e più ancora questi serpenti appunto riescono ad attivare queste reti truffaldine e a farci cadere un sacco di persone. Avvocato Grisafi, ma insomma è chiaro che uno va sul web per cercare magari delle polizze più convenienti rispetto a quelle che paga già, e le offerte ci sono, ma è molto difficile anche individuare un'offerta appunto interessante che in realtà nasconde una truffa. Avvocato, che ne pensa della notizia che abbiamo dato poco fa? Purtroppo questa è una notizia ricorrente, non si tratta di una novità, ma è in pratica quasi potremmo dire all'ordine del giorno, generalmente truffe di questo genere. Questo ci deve insegnare e ricordare come la convenienza dell'affare innanzitutto e il voler cercare da sé delle soluzioni su internet richiede ancor più attenzione e diligenza di quanto solitamente non si faccia quando magari ci si rivolge ad un assicuratore, anche perché nel momento in cui il consumatore da solo online decide di cercarsi una polizza deve fare uno sforzo in più per valutare e verificare che il soggetto con cui ha a che fare appunto non sia un soggetto abusivo. Innanzitutto polizze eccessivamente convenienti al pari di ogni prodotto devono sempre fare insorgere il dubbio che ci sia qualcosa che non va, o comunque attenzionare il contenuto di quella polizza, perché poi non è detto che abbia una copertura. Due, ci sono degli strumenti che il consumatore può utilizzare per verificare che si tratti di un soggetto affidabile. Le compagnie assicurative, gli intermediari sono iscritti in appositi registri dell'IVAS, quindi la prima cosa da fare è generalmente proprio andare a consultare l'albo di IVAS, che è presente sul sito di IVAS, quindi accessibile a chiunque, e già questo può essere un primo passo, cioè verificare se il soggetto con cui sto interagendo è un soggetto regolarmente iscritto e quindi autorizzato, cioè questo restringe il cerchio del rischio. Tra l'altro stare sempre attenti ai dettagli, le polizze che vengono inviate spesso hanno delle correzioni, delle piccole differenze che potrebbero sembrarci, non so, degli errori di stampa, dei refusi, invece molto spesso sono dei problemi di contraffazione. Aggiungo attenzione sempre ai siti, cioè andare sempre a fare lo sforzo in più di andare a verificare in calcio ai siti, nella parte in basso per capirci, a chi è intestato il sito, a chi fa riferimento quel sito, spesso è possibile. Allora magari si scopre che non è in realtà riconducibile alla famosa compagnia che viene pubblicizzata, ma magari un essere anonima o un soggetto anonimo. Questi sono tutti elementi che possono in qualche maniera servire. Si aggiunga che IVAS pubblica delle liste, delle blacklist di polizze contraffatte, di soggetti operatori contraffatti o cancellati, quindi in realtà il modo c'è, e che servirebbe un po' di pazienza e servirebbe uno sforzo in più. Tra l'altro c'è anche un numero verde di IVAS a cui fare riferimento, oltre chiaramente alle associazioni dei consumatori che si possono consultare, cioè vale la pena perdere qualche minuto in più nel fare una ricerca piuttosto che lasciarsi sedurre dalla convenienza del prezzo, perché non sempre il prezzo equivale in effetti ad un prodotto sicuro, ma soprattutto ad un prodotto adeguato. Ecco, avvocato Grisafi, io mi permetto di ricordare il sito ivas.it, fate un giro lì, fate un giro sul registro unico degli intermediari finanziari, degli intermediari assicurativi e riassicurativi, pardon, si chiama RUI, registro unico intermediari, e così verificate. E poi un'altra cosa, sono preparato Deborah perché sai che stiamo lavorando già al serpente corallo, attenzione a come è il metodo di pagamento, perché non esistono pagamenti dati a persone fisiche, ma si paga paga sempre alle compagnie, quindi quello è un'altra spia che può indicarci che si tratta di una truffa. E il prezzo molto basso, come ricordava giustamente l'avvocato. Adesso però c'è il contratto RC di base che dovrebbe darci una qualche tutela. Io chiamo in causa Maurizio Caprino, che ne ha illustrato le caratteristiche sul Sole 24 Ore. Maurizio, in che consiste questo contratto RC di base? Allora, consiste nel facilitare quello che abbiamo appena detto di non fare, o meglio, quello che abbiamo in qualche modo sconsigliato di fare, cioè andare alla ricerca su internet. Perché questo? Perché il contratto base in realtà va a intercettare una esigenza sentita a lungo, tant'è che era previsto dal 2012, vede la luce soltanto adesso. Dunque è un contratto che prevede, insomma, una polizza tipo in modo tale che tutte le offerte di ogni compagnia possano essere confrontate in maniera precisa, quindi dice qual è il contenuto minimo di una polizza RC auto, dice anche quali possono essere le garanzie accessorie, o meglio le clausole accessorie che riguardano questa polizza, tipo per esempio la rinuncia alla rivalsa in caso di stato del prezzo, oppure la limitazione del guidatore agente esperta, quindi sopra i 26 anni, oppure addirittura la guida esclusiva, cioè guida soltanto una determinata persona. Quindi è un instradare, un mettere tutto in binari molto molto molto rigidi, in modo tale che le polizze delle compagnie possano essere confrontabili. Questo confronto da un lato rende appunto diventa più facile, dall'altro però diventa un po' più diciamo annacqua la concorrenza fra le compagnie, che in qualche modo possono possono sbizzarrirsi di meno. Tuttavia va considerato che la concorrenza resta sulle garanzie accessorie, come appunto come la furto incendio, la casco, i cristalli, eccetera, eccetera. Quindi sarà un nuovo modo, per chi si cimenta sul web, sarà un nuovo modo di andare a vedere, dovremo farci l'abitudine, non possiamo dire ancora molto di più perché manca ancora un provvedimento attuativo, cioè quello sul modulo elettronico con cui le offerte verranno presentate sul web, e attenzione che comunque gli intermediari, tutti gli intermediari avranno l'obbligo di appunto utilizzare questo modulo elettronico per presentare le offerte di tutte le compagnie di cui offrono polizze. Quindi più confrontabilità, però anche da parte nostra un surplus di attenzione. Questo mi sembra una sintesi con cui ci possiamo fermare un attimo per ascoltare che cosa stanno facendo le borse. Chiedo scusa, io ho comprato le benzine e ci ho guadagnato un sacco. Grazie Manè. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Riguardo alle telefonate fastidiose da vari operatori o in generale, basta andare in impostazioni del telefono e attivare monitorizzazione dello spam, che molto spesso quando vi chiamano già vi dice possibilità di spam e al limite bloccate il numero senza neanche rispondere. In questo periodo ho in scadenza l'assicurazione auto, ricevo preventivi online. 100/150 euro in più rispetto all'ufficio dove mi reco. C'è un divano, macchinetta del caffè e segretaria. Però guarda caso, ogni anno ci sono sempre 7, 8, 10/12 euro di aumento. Era fatale, Deborah, che parlando di RC Auto ci fosse anche, diciamo così, il passaggio sugli importi, anche perché con il lockdown effettivamente ci dovrebbe essere stata una riduzione, una sospensione. Non so come siamo messi, l'avvocato Grisafi ci può dare un aggiornamento anche su questo aspetto, che non era proprio il nostro tema, ma visto che qualche ascoltatore lo solleva, arrivano questi sconti, ci sono questi ma sconti? In realtà... Ma in realtà, Mauro, guarda, io mi stavo chiedendo, adesso scusatemi se mi intrometto, ma ci stavo riflettendo proprio durante la pausa, il tema di questo preventivatore che adesso accelera nel tentativo di portarsi appunto più massicciamente tra le persone che non conoscevano questo strumento, forse deriva dal fatto che in questi mesi di lockdown tutte le auto ferme praticamente, sinistri drasticamente ridotti, se non quasi totalmente cancellati, almeno per il mese di marzo e per quello di aprile, tante risorse che si sono liberate per le compagnie di assicurazione che sono state invitate a redistribuire questa improvvisa ricchezza che si sono ritrovati appunto in bilancio tra gli assicurati, tra i propri clienti. Infatti abbiamo parlato molto di tante iniziative e promozioni commerciali che molti grandi gruppi hanno fatto, per esempio promettendo uno sconto sul prossimo rinnovo di contratto, oppure maggior flessibilità. Sentivo anche prima uno spot che passava durante la nostra pausa pubblicitaria. Quindi in realtà qualche cosa si è mosso, ma in realtà c'è ancora chi lamenta che tanto risparmio non lo vede né ora né in prospettiva. Scusatemi se ho fatto questa considerazione, ma appunto stavo stabilendo la relazione fra quello che è successo negli ultimi mesi e l'attivazione del preventivatore prossimamente. Avvocato Grisafi. Sì, in effetti c'è un aumento che viene segnalato che obiettivamente stride un po' con quella che è stata la realtà per le compagnie assicurative di fermo di questi tre mesi. C'è da dire che molto spesso è una politica che viene fatta e che può in molti aspetti favorire la concorrenza tra più compagnie, perché poi è vero che c'è un aumento sui vecchi assicurati, ma è anche vero che c'è una spinta di sconto sui nuovi assicurati, quindi si punta ad acquisire nuovi assicurati, quindi a cambiare il passaggio da una compagnia all'altra. C'è un fenomeno appunto del mercato che obiettivamente si evolve in questo senso e che, ripeto, questa è una richiesta che anche la stessa Consumer ha fatto in queste settimane e che un po' stride sostanzialmente. In questo momento è stato un momento d'oro, potremmo dire, per le compagnie assicurative, quindi l'idea di un aumento sui vecchi assicurati, perché ricordiamolo, obiettivamente è un po' è una nota stonata rispetto a quello che ci aspettavamo, anche se comunque appunto come dicevate adesso sono diverse le soluzioni che vengono proposte rispetto al blocco dell'auto, a nuove soluzioni che però vanno sempre ben ponderate, perché comunque rimane ferma la regola di capire al di là dello spot che cosa effettivamente questo significhi e soprattutto che cosa significhi per la propria classe di rischio, ma in generale per la propria modalità di gestire l'auto. Quindi stiamo attenti anche qui ai facili entusiasmi, perché non è sempre detto che poi effettivamente sia adeguato alle nostre necessità e al nostro modo di usufruire di quell'RC auto e quindi dell'auto. Ecco, c'è qualche ascoltatore che conferma quello che ci stava dicendo l'avvocato Grisafi. Lo sconto c'è, ma se cambio compagnia, se no non spero in uno sconto se non cambio compagnia. Vorrei però lasciare questo tema per affrontarne uno che sembra promettente, ma del quale chiedo conferma al collega Maurizio Caprino. Gli incentivi, ecoincentivi per la precisione, perché se ho capito bene, Maurizio, ci sono già previsti degli ecoincentivi per l'acquisto di alcune auto nuove dal 1 di agosto fino al 31 dicembre, ma nel decreto legge rilancio il Parlamento ha inserito un'ulteriore possibilità di sconto. Allora vorrei capire, conviene prima di tutto aspettare che il decreto rilancio diventi legge, così intanto mancano pochi giorni, dovremmo essere prossimi, e allora si delinea un quadro di che tipi di sconti? Si delinea un quadro di sconti rinforzati sulle auto che già avevano l'incentivo a partire dal marzo del 2019 e ce l'avranno fino alla fine del 2021, quindi stiamo parlando delle auto totalmente elettriche oppure delle più sofisticate e costose, aggiungerei, tra le auto ibride, cioè le plug-in, quelle in grado di percorrere in modalità elettrica qualche decina di chilometri. Quelle erano incentivate, viene aggiunto, hanno incentivi che vanno da 1.500 a 6.000 euro a seconda dei casi, a seconda che siano totalmente elettriche oppure appunto plug-in, a seconda che ci sia o non ci sia la rottamazione. Adesso vengono aggiunti 1.000 euro a questi incentivi e 2.000 in caso in cui ci sia la rottamazione. Viene poi estesa la gamma, l'area dei modelli incentivabili fino a includere anche modelli con motore tradizionale, come chiede da mesi la filiera dell'automotive, che ha un sacco di auto nel motore tradizionale da smaltire, sono lì nei piazzali e stanno rischiando di far chiudere almeno un concessionario su 5, oltre a dare problemi ovviamente agli stabilimenti. Quindi c'è questa estensione ai motori tradizionali, però attenzione, un'estensione molto limitata, molto blanda, perché parliamo di una incentivabilità che è limitata soltanto ai modelli che non emettono più di 110 grammi chilometro di CO2. Questo vuol dire, tradotto, che stiamo parlando delle auto ibride, diciamo normali, quelle un po' più abbordate rispetto alle plug-in, e auto fondamentalmente utilitarie, a benzina o a gasolio, qualche media, ma insomma nulla di che. Poi ci sono delle ulteriori limitazioni che non sono, tra cui il prezzo di listino che non può essere di oltre 40.000 euro al netto dell'IVA, e poi c'è la limitazione, diciamo, burocratica, nel senso che la norma, insomma, come è stata scritta questo emendamento al decreto rilancio, pone una serie di interrogativi che potrebbero restringere il campo di applicazione, ma siamo in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate ci diano maggiori delucidazioni, perché dipende da interpretazioni. Su tutto poi aleggia questa intervista rilasciata domenica dal Vice Ministro dell'Economia Misiani, il quale parla di ulteriori sostegni all'automotive, perché ovviamente tutto questo settore ha visto che la montagna di incentivi che aveva chiesto ha partorito un topolino, e quindi è tornato a protestare, e allora Misiani ha risposto in questo modo: questo potrebbe voler dire che arriveranno ulteriori incentivi, il che poi dal punto di vista del mercato non è esattamente una buona idea, nel senso che anticipare delle misure significa bloccare il mercato in attesa che le misure arrivino, oppure non si sa se il governo stia finalmente pensando a riconvertire la filiera, perché ovviamente, parliamoci chiaro, qui a botte di incentivi non ne usciamo a lungo termine, bisogna fare i conti col fatto che si produrranno meno auto, o comunque le auto prodotte avranno bisogno di sempre meno manodopera, e quindi bisognerà accompagnare questa filiera pian piano a riconvertirsi nel corso degli anni, se non addirittura dei decenni. Vedremo che cosa succederà. Grazie Maurizio, ti fermo un attimo perché dopo tutto questo parlare di automobili, di veicoli, di cambio delle autovetture, è il momento del traffico. Quest'estate puoi tuffarti nel mare cristallino di spiagge paradisiache, scalare le montagne più alte e ammirare panorami mozzafiato, perderti tra i borghi storici e i meravigliosi parchi e provare più di 1.000 specialità diverse, senza andare lontano. Riscopri l'Italia con noi. Quest'estate raggiungi le bellezze del nostro paese con Trenitalia e goditi le tue vacanze in modo sicuro e confortevole. Info su trenitalia.com. Due di denari. Sono un cosiddetto Tesla owners, cioè un proprietario Tesla. In Italia abbiamo un'associazione addirittura di proprietari che si chiama Tesla Owners Italia, e noi crediamo fermamente nell'azienda, quindi al di là di quello che un'azione significa, un profitto da azioni significa. Quindi la maggior parte di noi ha investito non solo comprando l'auto, ma anche le azioni in un'azienda nella quale crediamo fortemente. Elon Musk sta sradicando un settore vecchio di 200 anni. La macchina sta ferma 4 mesi, per 4 mesi viene posticipato la scadenza dell'assicurazione. È molto semplice. Ciao Ale da Brescia. Hai capito Mauro che ci sono anche i Tesla owners? La cosa però non ci disturba, diciamo, noi non avevamo niente in contrario, segnalavamo soltanto c'è un apprezzamento molto forte del mercato, e quindi insomma il valore di capitalizzazione dell'azione di Tesla è molto elevato, pur non essendo un produttore, per dir così, di portata paragonabile a quella dei maggiori produttori mondiali. E di tradizione consolidata, esattamente. Però non lo so, magari Maurizio Caprino ci può aiutare a capire capire anche la forza relativa di Tesla rispetto al mercato. Del resto, Maurizio, anche tu dicevi prima, il settore avrebbe bisogno non tanto di incentivi spot o a finestra, insomma, che si aprono e si chiudono, ma di una riconversione complessiva. Però questo non sembra essere al momento nella visione del governo e del Parlamento. No, assolutamente no, figuriamoci, l'Italia è il problema del rinvio, è il paese del rinvio anche su altre questioni meno epocali, figurarsi su questa. Quanto al caso Tesla, va detto che sì, ha smosso tanto questo mercato appunto vecchio di 200 anni, diceva l'ascoltatore, però non sono mancati i rovesci, nel senso che fino a quando si tratta di produrre auto da 100.000 euro ciascuna e poi farsi anche finanziare dagli stessi acquirenti, diciamo l'acquisto di azioni, farsi sostenere quindi la propria capitalizzazione è un conto, si crea anche una moda insomma fa gente che può spendere. Altro conto è arrivare a fare una produzione di massa, perché l'automobile per fortuna o per sfortuna è un prodotto di massa. Non a caso quando la Tesla si è cimentata col dover produrre un modello un po' più abbordabile oppure meno inabbordabile se vogliamo, ha avuto grandi problemi, quindi diciamo che il giudizio su Tesla deve rimanere quantomeno sospeso, comunque deve tener conto di questi alti e dei bassi, deve tener conto ovviamente anche del fatto che i big dell'auto già da anni hanno organizzato una reazione che non è fatta soltanto di pubbliche relazioni, è fatta di investimenti e quindi la competizione è aperta, bisogna vedere nei prossimi anni che cosa succederà, dipende anche da questioni geopolitiche legate anche alla produzione delle batterie e all'approvvigionamento delle materie prime che sono rare, e lì i cinesi sono avanti, sono i protagonisti. Certo. Esatto. Maurizio, ti vorrei fare un paio di domande di quelle proprio a bruciapelo. Incentivi valgono anche per auto a metano, chiede un ascoltatore? Sì, e basta che rientrino nel limite di emissioni di CO2 che ho detto deve essere non superiore a 110 grammi chilometro. Chiede un altro ascoltatore, su Euro 6 nuovo ho l'incentivo? Ecco, bravo. Allora, uno dei dubbi cui mi riferivo prima è proprio il discorso dell'Euro 6 nuovo, perché l'emendamento al decreto di lancio parla di acquisto di Euro 6 di ultima generazione, però vai a capire cos'è l'Euro 6 di ultima generazione, nel senso che proprio questi sono i mesi di passaggio dal cosiddetto Euro 6 di temp all'Euro 6 di pieno. Allora, se fosse se il governo, se l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico interpretassero questo come Euro 6 di temp, l'incentivo, il novero dei modelli che si possono scegliere sarebbe ampio. Se fosse invece l'Euro 6 di pieno, beh, quelli ce ne sono ancora pochini, quindi qui sospendiamo e attendiamo il chiarimento ufficiale. E dobbiamo aspettare, come abbiamo detto, allora è giusto se aspettiamo però almeno la conversione del decreto legge rilancio, quindi una settimana tutta aspettiamo ad andare al concessionario. Cosa dici, Maurizio? Esatto. Non solo, perché poi gli incentivi comunque partirebbero il primo di agosto e quindi mi aspetto che il chiarimento ufficiale arriverà intorno al 28-29 luglio, insomma. Sei pessimista, però dai, insomma, diamo fiducia. Ne abbiamo viste troppe, no? Un'altra cosa che volevo dire è che invece dal 1 luglio sono già scattati in teoria gli incentivi sull'usato fresco, che in realtà sono incentivi che riguardano soltanto l'usato elettrico o ibrido, quindi un infinitesimo, però dice l'emendamento che sono scattati il 1 luglio. Corso, quindi bisognerà vedere quale sarà la loro applicazione retroattiva. In ogni caso sono incentivi abbastanza ridicoli, perché sono soltanto uno sconto fiscale sull'imposta di bollo e sull'IPT, quindi parleremo in tutto, ma magari 200 euro insomma di incentivo, pochissima roba. Debora. Un'ultima domanda all'avvocato Grisafi. Io direi che per quello che riguarda il piano degli incentivi per l'acquisto dell'auto nuova, aspettiamo che dunque il quadro si definisca una volta per tutte. Intanto magari cominciamo ad andare a fare una visita al nostro concessionario preferito per capire qual è il modello che potrebbe fare al caso nostro. È lo stesso discorso che deve farsi per l'RC Auto, avvocato Grisafi. Generalmente l'offerta sul mercato è tanta, bisogna però anche cercare di capire qual è la polizza che fa al caso nostro. Ha sentito prima che c'era un ascoltatore che su WhatsApp ci ha lasciato il messaggio in cui si lamentava del fatto che la sua compagnia, nonostante il lockdown, nonostante l'autoferma per tante settimane, non gli ha proposto per il momento nessuno sconto. Magari la compagnia può decidere di non far nulla, ma l'assicuratore di fiducia può comunque fare qualcosa per noi. Ci dà due suggerimenti per fare una trattativa, per risparmiare qualcosina sulla prossima polizza? Ma sicuramente il consiglio di base è quello sempre di quello più banale, cioè quello di comparare, cioè non limitarsi all'offerta a cui magari o alla compagnia a cui siamo solitamente affezionati, ma valutare tutte quelle che sono le opzioni presenti sul mercato. La comparazione è sempre in qualche maniera la chiave di svolta nel trovare la polizza più adeguata alle proprie esigenze, andando a ben valutare anche in base a quelle che sono le proprie capacità di gestire le scadenze, piuttosto che la verifica dei premi, delle varie gestioni poi in corso di polizza. Quindi certo. Sì, ad esempio al polizza online, se siamo avvezzi ad essere autonomi nella gestione, però attenzione anche a non escludere invece l'importanza di la classica tradizionale agenzia, quindi di una forma di attività di assistenza, sì, di consulenza. Che grazie, grazie avvocato. Perché poi quando ci capita il sinistro il rapporto fisico ci piace molto, avere l'interlocutore con cui confrontarci. Grazie Mauro. All'avvocato Raffaella Grisafi, grazie a Maurizio Caprino. Noi torniamo domani, Deborah. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.